La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Eccoci qui puntuali come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, questa è l'ora di cinema che settimanalmente vi porta dentro le sale a capire cosa scegliere per il weekend e oltre, ovviamente, cosa vedere nelle pareti domestiche, come giocare con noi, come vincere i più bei film della stagione, ascoltare le voci dei protagonisti del cinema. È una settimana interessante, molto interessante questa per il cinema, per le uscite in sala, una settimana molto variegata e anche di ottima qualità. Ci sono tanti spunti, quindi cominciamo subito perché parleremo di film che hanno veramente anche una certa importanza, parleremo di un botteghino che sta veramente, come dire, non dico risorgendo, però vivendo un momento finalmente felice grazie al successo di It, che è ancora primo in classifica dal giorno in cui è uscito, ormai più di una settimana fa, tutti i giorni al primo posto, per il momento anche davanti a Thor Ragnarok, che è il blockbuster, diciamo, di questa settimana, e sta anche ottenendo ottime critiche e un ottimo passaparola, quindi potrebbe essere un film di quelli che danno uno scossone alla stagione cinematografica, ma ne parliamo fra poco, diamo un'occhiata anche alle cifre. Cominciamo però con la prima proposta di questa settimana, che è una proposta italiana, è una proposta che può avere il potenziale per fare molto bene. Si intitola Terapia di coppia per amanti e nel titolo c'è già tutto. Di solito la terapia di coppia è per le coppie, quelle consolidate, sposate, di lungo corso. Gli amanti sono la via di fuga molto spesso per ricercare e ritrovare se stessi. Ebbene, questa volta invece sono proprio due amanti che finiscono sul fatidico lettino. Noi vicino a quel lettino abbiamo mandato Chiara Pizzimenti. La sai una cosa, Viviana? Come, scusa? Impara a controllarti, Modesto. Perché se no che fai, Viviana? Sentiamo. Devo dirti una cosa. È incinta. No! Andiamo in terapia. Viviana e Modesto, Ambra Angiolini e Pietro Sermonti, hanno solo l'apparenza di una coppia come tante. I loro problemi sono simili a quelli di altri, ma la situazione di partenza è particolare. Io e Modesto non siamo proprio sposati. Non vedo dove sia il problema. E né fidanzati. E né conviventi. Perché siamo amanti. Amanti? Nel senso che siamo sposati però con altre persone. Il dottor Malavolta, Sergio Rubini, accetta il caso, ma i problemi della coppia aggiunge i suoi, visto che anche lui è impegnato in una relazione clandestina. Si uniscono al puzzle i rispettivi coniugi e figli, il cane e il padre di lui, Franco Branciaroli, musicista che va di letto in letto. Lei non ha prospettive. Ha paura dei progetti. Io veramente non sopporto l'idea di renderti infelice. Ha paura dei desideri. Io non voglio vederti mai più. Se mi riferisco a Viviana chiamandola la sua compagna, posso chiederle cosa prova quando mi sente pronunciare queste due parole? Il film si basa sull'omonimo romanzo di Diego De Silva, che ha partecipato alla sceneggiatura con il regista Alessio Maria Federici. Funziona nei dialoghi, più quelli maschili che quelli femminili, e nelle battute, non nell'impalcatura generale, che vuole tenere in piedi troppe storie. Bastava quella degli amanti. I guizzi non sono sufficienti a compensare le pause, anche in musica. Modesto fa il chitarrista con i Diana Lu e con Alan Sorrenti, ma l'inserimento musicale è forzato. E questo è il racconto del film Terapia di coppia per amanti da parte di Chiara Pizzimenti, che poi ha anche intervistato i due protagonisti, Ambra Angiolini e Pietro Sermonti. È arrivata preparata, aveva già letto il libro, sapeva tutto di questo film. Sì, in realtà sì, cioè del libro, poi il film è tutta un'altra storia, però il libro l'avevo comprato perché volevo fare un adattamento teatrale, poi non è andato in porto quella cosa lì e Alessio mi ha chiamato per propormi il film. Ovviamente fa lei, ma le sarebbe piaciuto lui? Quando ho letto la prima sceneggiatura ho detto, ma io voglio fare Modesto, perché ha questo sarcasmo che a volte diventa fastidioso, che irrita, ed è una cosa che in realtà mi diverte parecchio. Cioè io ogni tanto la metto in atto nella vita, quindi un po' conoscendola volevo cavalcare l'onda. 10 anni fa Saturno contro, com'è cambiata la tua carriera, come sei cambiata tu? Ma io mi aspetto sempre di poter fare il mio lavoro esplorando tutte le possibilità e quindi cambiare spesso genere, pubblico, storia, ruolo. Non è sempre facile, perché poi anche nel cinema ci sono un po' dei gruppi, no? Che tendono a scegliere un po' gli attori che fanno la commedia, gli attori che fanno film drammatici. Io però finora, ogni volta che ho pensato, un po' come Benigni nella Vita è bella, spegniti luce, poi alla fine la luce si è spenta o si è accesa. Di solito il marito perfetto, fidanzato perfetto, in questo caso no, l'amante perfetto. Da marito perfetto, attendibile cosa, a amante imperfetto, che viene giustamente costretto a una verifica, che poi appunto, conoscendo Diego De Silva, ho capito che era lui, ci si vedeva moltissimo in questo personaggio, e di fare un po' l'alter ego è stata anche una responsabilità enorme. È un musicista nel senso, come dire, cliscettoso del termine, nel senso che uno che si capisce che c'ha un sacco di donne, che ce l'ha avute sempre, che c'ha questo rapporto con questa moglie che io vedo molto materno, che lo accudisce perché lui è un bambinone. È un artista pigro, non mi dovete rompere le scatole. E io penso che, da un punto di vista, come dire, della caratura dei rapporti, la mia amante Ambra Viviana faccia una cosa molto intelligente. Mi piace molto, perché una nota forte di questo film è l'intelligenza emotiva femminile. E questo quindi il primo film, la prima proposta importante della settimana, Ambrangiolini, Pietro Sermonti, Terapia di coppia per amanti di Alessio Maria Federici. Adesso, linea alla viabilità, fra poco andiamo ancora dentro il cinema italiano, che come vi dicevo è protagonista questa settimana, con tutto un altro genere, si intitola La ragazza della nebbia, e sarà con noi lo scrittore e adesso anche regista di questo film, Donato Carrisi, fra poco. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea prosegue. Abbiamo detto un altro film italiano, cambiamo decisamente atmosfere, genere, mood, e c'è anche la nebbia stavolta, la nebbia che avvolge le montagne di un paesino che si chiama nel film Avesciò, una piccola valle nelle Alpi, una nebbia che inghiotte tutto e a un certo punto inghiotte anche una ragazza che si chiama Anna Lua, 16 anni, ha i capelli rossi, le lentiggini ed è scomparsa apparentemente nel nulla. Anna Lu è alta 1,60 m, ha lunghi capelli rossi. Sono le 17 del 23 dicembre, esce per recarsi a un incontro alla chiesa della confraternita. Non ci arriverà mai. Non sono gli eroi positivi che determinano il successo di un'opera, anzi, perché il male, il vero motore di un racconto. Conosco questa gente da quando sono nata. Posso giurare sulla buona fede di ognuno di loro. E allora è con noi Donato Carrisi, che oltre a essere lo scrittore di thriller e noir italiano più letto nel mondo, è da adesso anche il regista di questo film, che è tratto appunto da un suo libro e che egli stesso ha voluto portare sul grande schermo. Grazie per essere qui con noi, Donato Carrisi. Grazie a voi. Donato, allora, intanto come t'è venuta? Cioè, perché hai sentito il bisogno di mettere sul grande schermo questa tua opera? Avevi avuto magari anche abboccamenti di altri, ma non ti avevano convinto e hai pensato di far da solo? In verità sono anni che i lettori mi dicono: leggere un mio libro sembra quasi di vedere un film, no? E allora ho deciso, vabbè, allora bisogna fare questo salto. Siccome scrivo per immagini, allora, insomma, mi è riuscito anche abbastanza facile, devo dire, perché poi la parola che evoca l'immagine, insomma, è molto efficace in determinati contesti. Ecco, Donato, una ragazza di 16 anni che scompare nel nulla in una valle, in una piccola comunità in mezzo alla natura. A me è venuto in mente immediatamente Twin Peaks, no? Cioè, leggendo questa cosa, il primo Twin Peaks, che fine ha fatto Laura Palmer e qui è che fine ha fatto Anna Lu. Lo possiamo definire un po' una sorta di Twin Peaks alpino? No, è curioso che ti sia venuto in mente Twin Peaks, perché poi tutte le storie che ispirano in generale questi thriller molto, come dire, molto quasi da fiaba cattiva, si assomigliano tutti. Sì, direi che potrebbe essere definito sicuramente una fiaba cattiva alpina con però una dimensione diversa, ecco, una dimensione un po' più profonda, un po' più oscura. Ecco, una dimensione nella quale tu cali, diciamo, personaggi che indagano un po' la verità, come spesso accade in questi casi, indagano su piste che vorrebbero stare sul lato pratico della cosa, cioè scoprire dov'è questa ragazza, ma in realtà vanno poi a inserirsi queste piste nelle anime di chi in quelle zone ci abita, per scoprire, tirare fuori una sorta di, fammelo definire, un maligno che c'è dentro, che aleggia, no? Dentro questa comunità. Beh, ognuno si porta dentro un segreto, e la scomparsa di questa ragazzina è proprio, come dire, il pretesto per mettere insieme i segreti di tutti, che poi in realtà sono un disegno molto preciso che assomiglia tanto ad un mostro delle fiabe. Tony Servillo, Alessio Boni, Galatea Ranzi, Michela Cescon, Greta Scacchi, solo per citarne alcuni, nomi importanti insomma nel cast di questo film. Com'è stata in questo senso, cioè nella direzione degli attori, nel cercare di farli somigliare nei limiti del possibile ai tuoi personaggi scritti, com'è stata questa prima esperienza registica? Beh, aggiungere anche Jean Reno, insomma, che assolutamente sì, hai fatto bene anche a dirlo. Jean Reno. Beh, è stato particolare perché io ho raccontato loro la storia all'inizio e ho atteso le loro reazioni, e devo dire che la loro reazione assomiglia molto a quella del pubblico che sta andando a vedere il film in sala. Per esempio, c'è un mio amico che si diverte a mandarmi le foto degli spettatori che escono dalle sale e hanno gli occhi sgranati. Ecco, la loro prima reazione è stata quella, e io ho detto a tutto il cast: sfruttate il finale di questa storia, sfruttate quello che mi trasmette, diluitelo in tutto il racconto, perché noi dovevamo creare la suspense, che è complicatissima da creare. Se quel miracolo succede, allora vuol dire che il film funziona. Non eravate preparati a convivere con l'incertezza. Eravate convinti che il mostro fosse venuto da fuori. Ma in fondo al vostro cuore nutrivate il sospetto che il male fosse stato sempre in mezzo a voi. Ecco, Donato, una cosa che mi ha molto colpito nel film è che tu hai fatto un film in questo senso molto hitchcockiano, cioè dove non c'è arma, sangue, violenza, non ci sono alcuni degli ingredienti classici del thriller, ma tutto questo si sviluppa invece negli sguardi, nei rapporti, nelle parole. Perché questa scelta? Ma perché per creare la suspense effettivamente non sono necessari questi ingredienti forti, basta prendere un elemento che fa parte della normalità, della quotidianità, della vita delle persone e trasformarlo. Per esempio, non c'è niente di più bello nella vita della risata di un bambino. Siamo d'accordo su questo, no? Assolutamente. Tranne se la senti di notte, sei solo in casa e non hai figli. Ecco, questa è la suspense. Prendere una cosa bellissima, naturalissima, e trasformarla in un contesto, in qualcosa di inquietante. E non serve per questo ricorrere ad armi, al sangue, ai cadaveri, alla violenza. Donato, ti faccio un'ultima domanda. Quando si sbarca sul grande schermo e si padroneggia questo mezzo così importante, così collettivo anche, se vuoi, che è il cinema, chiaramente si arriva con un background. Il tuo background cinematografico, i registi, non dico ai quali ti sei ispirato, ma che sono maturati e lievitati dentro di te per portarti poi anche a questa scelta, quali nomi ti senti di fare? Beh, guarda, la grande stagione del thriller degli anni 90, tu prima hai citato Twin Peaks, ma credo che Il silenzio degli innocenti, per esempio, sia molto più incisivo nel mio modo di raccontare. Seven, per esempio, che mi ha ispirato il romanzo Il suggeritore, e in questo caso I soliti sospetti, le atmosfere, la dinamica, il colpo di scena finale, diciamo che sono molto simili a quelli di quel film. Perfetto, grazie allora a Donato Carrisi. La ragazza nella nebbia è al cinema, andatelo a vedere e scriveteci come sempre sulla nostra pagina Facebook i vostri commenti. Grazie mille Donato e in bocca al lupo. Viva il lupo! Adesso cominciamo a giocare, perché abbiamo la prima traccia, il primo frame del nostro film misterioso. Chi è lei? Nessuno. Le darai da mangiare con la tua paga. Sì, madame. Voglio che tu stenda la biancheria e la stiri. Adesso. E tu risciacqua. E allora, se avete già indovinato il titolo di questo film, La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie del DVD che vi faremo ascoltare in un'altra piccola traccia fra pochi istanti. E allora andiamo avanti con altre novità in sala. Direttamente dall'ultimo festival di Cannes torna quello che è stato fino a qualche anno fa, ma guardate come cambiano velocemente anche le mode, anche in fatto di star. È stata una star assolutamente mondiale, in quegli anni la prima star, se vogliamo, mondiale. E oggi è anche un ottimo attore, lavora a ottimi livelli ma con un cinema più indipendente, più underground, più di ricerca. Stiamo parlando di Robert Pattinson, che è nel nuovo film dei fratelli Safdie, che si intitola Good Time. Devo chiederti una cosa importante. Cosa? Ti avevo parlato di mio fratello, ricordi? Ti ho detto della terapia che è costretto a fare e che non sopporta. Allora non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, hai capito? No. È successo qualcosa, non so esattamente cosa. Mio fratello è stato arrestato ed è finito a Riker Island. Potrebbero anche ucciderlo lì dentro. Allora, al di là della citazione trapattoniana, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, chissà cosa, come lo dicevano in lingua originale, non lo ricordo sinceramente. Il film racconta una rapina andata male, una rapina in banca da parte dei due fratelli. Siamo a New York, nel quartiere del Queens. Connie riesce a scappare, il fratello, che ha gravi problemi di ordine mentale, anche in cura da un terapista, viene arrestato, e da quel momento l'unico obiettivo di Connie, che fa scattare la fratellanza, diciamo, che è dentro di lui, è quello di riuscire a recuperare il fratello e soprattutto trovare il denaro necessario per pagare la cauzione. Boris Sollazzo è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, questo Good Time aveva abbastanza colpito a Cannes, intanto perché è un film che ha una matrice, come dicevo, fortemente indipendente, proprio esteticamente. I fratelli Safdie vanno molto di camera a mano, con colori saturi, inseguono i loro protagonisti in vie del Queens di New York, non particolarmente addobbate o fatte oggetto di un set particolare, ma molto naturali, molto ruvide. E l'altra cosa che aveva molto colpito è come questo film cominci come un film di rapina, una rapina appunto andata male, ma presto si trasforma in film su che cosa vuol dire oggi il fatto di essere fratelli. Cioè, lo sguardo dei Safdie finisce per concentrarsi proprio sui personaggi e per scrutarli e per capire come può funzionare una storia così particolare. Un film estremamente complesso, perché, come dici tu, sostanzialmente ha due piste narrative estremamente diverse: quella del cinema d'autore underground, quasi psichedelico, che si concentra su un rapporto parentale strettissimo, quasi morboso, quasi gemellare, in cui uno è necessario all'altro e vale anche per quello che in teoria sembra avere più bisogno, il fratello autistico rispetto al fratello invece tra virgolette normale, ma in verità hanno due forme di autismo, una più fisica, l'altra più sociale. E dall'altra parte un film d'azione to cure, un ice movie, un film d'evasione, non nel senso di commedia ma nel tentativo appunto di tirar fuori dal carcere uno dei due, che è imbevuto in maniera selvaggia di una certa estetica anni 80, voglio dire, all'inizio anche il look sembra preso di peso da una certa estetica alla Konchalovsky. La storia dei fratelli Safdie è molto interessante, sono molto giovani, uno è dell'84 e l'altro è dell'86, hanno già una discreta carriera alle spalle di documentaristi e non solo, e questo ha in qualche modo imbevuto il loro cinema, che riesce ad essere adrenalinico, sincopato, appunto hai parlato di queste camere a mano che danno un movimento al film davvero inusuale per certe tematiche e con una colonna sonora che riesce ad essere martellante senza essere invadente. Dall'altra parte c'è una sensibilità verso l'America degli ultimi, verso l'America degli emarginati, verso l'America degli sbagliati. Ne esce fuori un film che ovviamente ha dei problemi perché c'è davvero tanto, se non troppo, da raccontare, e c'è anche un modo di raccontarlo sopra le righe, fuori dalla norma. Non sempre questo porta a un racconto rotondo, un racconto perfetto, ma è forse proprio questa la forza di un film che in alcuni casi appare compiaciuto, perché i due sono molto bravi visivamente e narrativamente, hanno molto intuizioni, ma che molto spesso è coraggioso, è potente, e quel coraggio copre anche quei difetti che ci sono in Good Time. C'è da dire che poi Robert Pattinson ci mette molto del suo, vivrà probabilmente una carriera cercando di dimostrare di essere un attore diverso dal sex symbol che è stato in gioventù. A mio parere lo ha già dimostrato, ma forse quella faccia è troppo invadente e nessuno sa riconoscerlo, rischia di diventare il nuovo Tom Cruise in questo senso, ma il suo percorso coraggioso si sposa benissimo con quello dei Safdie e vive il cinema quando magari sbaglia per troppo coraggio. Qua tra l'altro non sbaglia, è un film che va visto e che diverte, che intrattiene e che fa molto pensare, e certo è perfettibile, ma per fortuna i due ragazzi sono giovani e secondo me ci offriranno tanti bei capolavori. E questo era quindi Good Time. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo perché ci aspetta un eroe con tanto di martello, non pneumatico ma davvero magico, si chiama Thor. Fra poco. Assenti ma a loro modo presenti, impegnatissimi ma che poi si impegnano ad esserci, attenti ma tanto distratti, volenterosi ma un po' impacciati, autorevoli ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo, è padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri per perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. La domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Per fortuna che ci sono. La rosa purpurea. Dove siamo? Era la dea della morte, ha invaso Asgard. Ah, oh, quanto mi mancava. E io e te abbiamo combattuto. Asgard è morta e rinascerà a mia immagine. Non sei contento di vedermi? Mala temporum anche sulla Terra, come avete sentito, per questa nuova avventura di Thor Ragnarok, una film che questa volta mette di fronte, direi ancora una volta in realtà, mette di fronte la battaglia eterna fra le forze delle tenebre e quelle della luce. Una terra in pericolo, il principe di Asgard, un Asgard che non c'era più, si era volatilizzata, diciamo così, anzi cristallizzata nel precedente film. Thor deve però vedersela con nuovi nemici, la perfida Hela, interpretata da Kate Blanchett, in un cast tra l'altro che mette insieme Anthony Hopkins, Jeff Goldblum, Mark Ruffalo e il solito Tom Hiddleston nei panni del fratello Loki. Allora, Boris, questo Thor appare come un film che tenta di spostare un po' più verso la sfera adolescenziale, forse, i suoi spettatori, cioè li cerca in quell'altra sfera, non che prima fosse un film, diciamo, però aveva comunque sempre tentato di mettere insieme i maniaci del cinecomics, il target 40-50. Stavolta mi sembra che ci sia invece un po' più uno sforzo di ringiovanire, se possibile, il personaggio. È vero, hai ragione che c'è stata una scelta di marketing più che narrativa. Il problema dei Marvel Movies in questo periodo era stato una ricerca della globalità del racconto rispetto al Marvel Universe, che spesso faceva perdere di vista l'esigenza di raccontare una storia all'interno del film, perché i film venivano visti come tasselli di un puzzle più grande. Qui che cosa succede? Qui ci ritroviamo con un Thor sempre più cialtrone, con questo Chris Hemsworth che ammicca, comica che fa battute da stand up comedian di periferia, che addirittura si riappacifica in maniera improbabile con Loki solo ed esclusivamente per poter creare dei siparietti abbastanza grossolani, si prende anche in giro la figura del loro padre di Odino, che insomma ha una presenza decisamente limitata ma piuttosto avvilente, e questo però in un film che non cambia nulla della sua struttura, cioè ancora un film che dura più di 2 ore, è ancora un film che ha l'ambizione dell'epica, che ovviamente però con la comicità demenziale ha poco a che vedere, è ancora un film che prova comunque a costruire qualcosa di visivamente ridondante, come il Ragnarok di Thor. Ragnarok può essere tradotto con Apocalisse. Tutto questo provoca un disorientamento completo nel pubblico che a mio parere non riesce a ridere se non quando l'umorismo involontario arriva a livelli quasi insopportabili, e con dei personaggi che sono caratterizzati come nella peggior commedia anni 90. Davvero sembra un'opera in cui ci si è sforzati di sbagliare ogni scelta a livello visivo e narrativo, a ogni bivio di sceneggiatura, e non è un bel biglietto da visita per un film che però, va detto, poi è partito veramente in quarta agli incassi, e quindi forse abbiamo torto noi critici ad aver ragione il pubblico. Dobbiamo fermarla qui ed ora per evitare Ragnarok, la fine di tutto. Metto insieme una squadra come ai vecchi tempi. Sorpresa, ci divertiremo. Non sono una regina, né un mostro. Sono la dea della morte. Tu invece sei il dio di cosa? Insomma, non benissimo, diciamo, per questo Thor Ragnarok, che come diceva Boris è partito bene al botteghino, però è partito bene, meno bene di It, che il primo giorno di programmazione lo ha comunque battuto. Adesso vedremo cosa succederà chiaramente nel weekend. È chiaro che Thor è un film da weekend, ma è chiaro anche che le aspettative di incasso su questo film sono molto alte, e quindi bisognerà vedere un po' che cosa riuscirà ad apportare. Bene, a questo punto giochiamo ancora insieme, perché dobbiamo ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Prima, seconda, terza, quarta, quinta. Queste 5 posizioni sono la base di ogni cosa. Ora ferma, sorridi, e quando sei stanca che inizi a fare progressi. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, avete capito bene in che ambiente eravamo, no? C'era qualcuno che diceva cosa fare, quindi una maestra, un'allieva, una piccola allieva. Insomma, se avete capito di che film si tratta, La Rosa Purpura, @radio24.it è il vostro indirizzo. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo privato per provare a vincere uno dei 2 DVD che sveleremo fra pochi minuti. Adesso noi andiamo avanti, perché c'è un altro film che ha avuto un'uscita molto molto importante in questo fine settimana, che si intitola Vittoria e Abdul. Ascoltiamo la clip. Signor Karim, voi andrete in Inghilterra e servirete la regina. Ma non dovrete mai guardare in faccia Sua Maestà. Gelatina, Maestà. A un tratto mi sento molto meglio. Ti piacciono i tuoi nuovi abiti scozzesi? Sono molto ruvidi. Tutto in Scozia è ruvido. E allora avete sentito un passaggio di Vittoria Abdul, figlio di Stephen Frears, quindi firma importante alle spalle, anche il cast con Judi Dench parte benino, diciamo, e poi Ali Fazal al suo fianco, per quella che è l'eterna storia, una storia archetipa se vogliamo, del rapporto fra un personaggio molto umile, questo servo indiano, ventenne, e un personaggio altolocato, addirittura la regina Vittoria. Il loro incontro nell'occasione del giubileo dei 50 anni del regno, e una amicizia che piano piano parte, prima conoscenza, poi amicizia, che diventa qualcosa di saldo, intimo, tanto che la famiglia reale è un po' scombussolata da questo rapporto che si è venuto a creare. Boris, ascoltando anche la clip mi venivano in mente immediatamente le immagini di un film di parecchi anni fa, devo dire, che si intitolava Spasso con Daisy, e mi è venuto in mente che questo del rapporto fra il personaggio molto umile e quello molto altolocato, che però trovano una umanità con cui dialogare, è diventato quasi un genere. Assolutamente sì, lo è diventato man mano che lotta di classe si è sfumata, tra virgolette, si è cominciato a raccontare con personaggi estremamente lontani per trovare forse il motore di un genere che appunto in Aspasso Condesi era brillante e che qui diventa più complesso raccontare, e quindi bisogna appunto forse metterci di mezzo un titolo da monarca e uno status da servo per poter poi costruire questo rapporto che non ha nulla di equilibrato. Si sperava che con Fritz, che insomma la corte, la regina l'ha sempre raccontati bene, ed è quindi molto curioso che invece in Vittorio Abdul lui non riesca a farlo. Sembra riuscirci all'inizio, quando tutto è concentrato in qualche modo sulla regina e su Abdul che guarda da fuori questo mondo assolutamente stranissimo in cui c'è questa donna molto anziana, dispotica, disincantata, che comanda senza più la voglia di farlo, che è annoiata dal potere stesso. E diventa invece stereotipato e anche grottesco e macchiettistico quando i due vengono realmente a contatto. Questo perché? Perché a livello di scrittura non si risolve in un rapporto complesso, in un rapporto di profonda sensibilità, in un rapporto di avvicinamento, ma in qualche modo nel suo esatto contrario, cioè nel rimarcare sempre le rispettive differenze, sia culturali sia generazionali. E poi perché si punta sulle debolezze dei due personaggi, che non sono però le fragilità. Cioè da una parte lui, che continua ad essere il buon selvaggio naif, e dall'altra lei che è una donna che vuole ancora sentirsi femminile, e attorno a loro il commento è in qualche modo pettegolo, e questo tira fuori una comicità abbastanza bassa che poco si confà sia a Stephen Frears sia alla natura del racconto, che poteva essere molto interessante, molto più profondo, molto più stratificato e allo stesso tempo molto più divertente, perché anche la comicità fondata semplicemente su allusioni più o meno forti a livello sessuale e su comparazioni social-aristocratiche che poco hanno a che vedere anche con il mondo attuale riescano a fare. E alla fine Vittorio Abdul è stranamente, soprattutto contando che il regista è Stephen Frears, un film davvero troppo spesso, troppo poco raffinato per poter piacere, e dall'altra parte davvero antiquato nella modalità in cui cerca di intrattenerti, di farti ridere. Davvero un peccato, perché insomma da Frears noi ci aspettiamo sempre qualcosa in più, visto come sa raccontare determinati ambienti che ormai conosciamo sempre meno. E questo era quindi Vittoria e Abdul. Boris, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, linea adesso la viabilità, fra poco di nuovo insieme alcuni dei film, i nostri consigli sui film da vedere in casa. La Rosa Purpurea. Eccoci qui, La Rosa Purpurea prosegue, abbiamo parlato di tutto il cinema da vedere in sala, adesso parliamo di quello che si può recuperare a casa. Prima però vi dobbiamo l'approfondimento sulla classifica di cui avevamo accennato in apertura, per dire che dopo praticamente anche questa settimana, dopo poco più di una settimana di programmazione, It ha già raggiunto quasi i 10 milioni di incasso ed è ormai il secondo film stagionale, cioè di quelli usciti dopo il primo agosto. È un grosso risultato, quasi 1,5 milioni di spettatori. È un film che sta macinando ancora molto. Per quanto riguarda invece le uscite di questa settimana, una curiosità che riguarda appunto La ragazza della nebbia, abbiamo sentito prima Donato Carrisi nella nostra intervista, che ha fatto meglio di Terapia di Coppia per amanti, quindi il noir italiano un po' meglio della commedia italiana di questa settimana, ma sono dati parziali, ripeto, il weekend si deve ancora compiere e quindi andremo a vedere un po' che cosa sarà successo alla fine. Per il momento invece ci spostiamo sui film da vedere in casa, cominciando a riascoltare una delle tracce con cui avevamo giocato 7 giorni fa. Dammi la mappa o io ti uccido. Lui? Ti uccido lui. Coraggio. Stai bleffando. E tu arrossento. Si trattava dei Pirati dei Caraibi 5, La vendetta di Salazar, un film che aveva animato, diciamo così, la parte finale della scorsa stagione e che adesso è arrivato in Blu-ray, DVD, non video, da Disney, un film che personalmente ho trovato forse il migliore della saga. Non sono un grande appassionato della saga, lo ammetto, però devo dire che mi ero molto molto divertito in questa bellissima proiezione che era stata fatta per la stampa europea, in quella di Disneyland addirittura, con i personaggi lì così, ma non era tanto il mondo, non era tanto il contesto, quanto un film che aveva un grande potere di immaginazione, era immaginato molto bene, proprio anche nell'utilizzo degli effetti speciali, e questo ne fa forse anche uno dei segreti del successo. Però hanno giocato con noi ai Pirati dei Caraibi 5 Maurizio Pallante di Brusato, provincia di Brescia, e Mauro Capitagno di Cornedo Vicentino, ovviamente provincia di Vicenza, che si troveranno a casa il Blu-ray di questo film, che ci facciamo raccontare tutti i suoi contenuti speciali da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Jack Sparrow deve affrontare una flotta di marinai fantasma capitanati dal vendicativo Armando Salazar. Quindi torna il personaggio tutta mimica e mossette di Johnny Depp in questa saga che non mette in secondo piano, come molto spesso capita con le saghe a rischio di déjà vu, la sorpresa, l'originalità e la meraviglia, come appunto dicevi tu, perché la macchina cinema messa in moto dai due registi norvegesi risponde esattamente e bene, se non meglio, proprio a quanto già fatto dal primo film della saga diretto da Gore Verbinski, e soprattutto soddisfa le esigenze del pubblico piuttosto giovane, diciamo, al quale si rivolge. L'enorme budget di 230 milioni di dollari è stato ammortizzato praticamente subito con un'accoglienza da 791, e il film è con ottimo riversamento, come sempre con la Disney, ha molti contenuti speciali, tra cui un documentario sulla lavorazione e un documento appunto dedicato agli effetti speciali, un approfondimento sul villain Salazar interpretato da Javier Bardem. E questo era il nostro game della scorsa settimana, promosso anche dal nostro Giulio San Giorgio. Allora, diamo un'occhiata ai palinsesti televisivi. Abbiamo voluto accoppiare i nostri spunti di questa settimana, i nostri consigli di visione domestica, con un paio di progetti di film che stanno uscendo o di cui si vocifera per il grande schermo. Cominciamo da Reds di Warren Beatty, film del 1981, epoca in cui si facevano ancora i colossal, quelli di durate importanti, 195 minuti, per questo film che potrà essere visto, anzi rivisto, sulla 7 alle 21.30 di domenica 29 ottobre. Sì, reduce dal Messico, dove aveva seguito con i suoi reportage le gesta di Pancho Villa, il giornalista John Reed si innamora di Liz Bryant e fugge con lei a New York. Li separa la Prima Guerra Mondiale, ma i due si ritrovano a Pietroburgo e lì diventano testimoni della rivoluzione d'ottobre, che compie quest'anno appunto 100 anni. Di nuovo in patria, Louise si sente trascurata a causa dell'impegno politico di John, che sceglie di ritornare in Russia. Warren Beatty produce, dirige, interpreta come da par suo questo colossal, come dicevi, che ambisce quasi a fondere il dottor Zivago con Via col vento, per alcuni riuscendoci, per altri no, comunque tenendo sempre presente il côté politico, come dimostrano tutti i film di Warren Beatty, in questo caso con giornalisti che donchisciottescamente sono impegnati a importare il comunismo in Russia. E visto che appunto sono 100 anni dalla rivoluzione d'ottobre, chi vuole ripassare il manifesto del comunismo può vederlo come in un film citato da Kate Blanchett, che si chiama appunto Manifesto, dove vengono raccolti tutti i grandi manifesti politici avanguardistici del secolo scorso. E assolutamente, e si vocifera tra l'altro da qualche tempo di un progetto, di un biopic su Lenin, niente meno interpretato che da DiCaprio, che effettivamente, se guardate le foto anche su internet, una certa somiglianza con il leader comunista. Andiamo avanti con un'altra proposta, martedì 31 ottobre su Iris alle 5:10 del mattino, orariaccio però a 3. C'è Dogville di Lars von Trier. Sì, siamo nel 1930, a Dogville, uno sperduto villaggio delle montagne rocciose, arriva la bella Grace. Sulle sue tracce ci sono due assassini, ma grazie a Tom, portavoce della comunità, Grace ottiene ospitalità e protezione, però ha un patto, che sia disposta a lavorare per il bene comune, venendo però poi sfruttata e infine umiliata. Bjork, dopo le accuse a von Trier, dice che questo film è ispirato alla produzione di Dancing in the Dark, dove la cantante islandese la protagonista dove aveva subito, dice quello che ha subito e subisce Nicole Kidman in questo film. Certo che Von Trier in questo film usa Grace come un angelo caduto dal cielo, una sorta di grazia appunto per la piccola città, e che la piccola città non si merita. La scenografia del film è ridotta al minimo, le case sono disegnate col gesso per dire che tutti possono vedere tutto, non ci sono muri, ma fingono di non vedere. Un buon modo, insomma, per dire le parole ipocrisia e ideologia. E questo ci fa venire in mente che invece sta per arrivare nelle sale italiane questo The Square, e anche qui parliamo di un curatore di un museo d'arte contemporanea di Stoccolma, siamo anche qui in Scandinavia, che mette su appunto una mostra, che è un'opera che si chiama The Square, un quadrato delimitato da un perimetro luminoso all'interno del quale tutti hanno uguali diritti e doveri. E questo mi fa venire in mente proprio quella città di Dogville tracciata col gessetto per terra da Lars von Trier in questo film, che è rimasto veramente forte forte nell'immaginario collettivo. Giulio, grazie per averci raccontato le visioni domestiche, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao Franco, la prossima settimana. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, vi dobbiamo solo un titolo. Il titolo del film misterioso di oggi era Ballerina. Vedremo, vi scopriremo settimana prossima chi l'avrà indovinato, chi l'avrà vinto. Per il momento andate al cinema e ci risentiamo fra 7 giorni. Un saluto da Franco D'Assisi.